Presentati. Ciao, mi chiamo Katia e vivo ad Arco e ho 40 anni. Mi piace molto leggere, andare al cinema e ascoltare musica. Come stai in questo momento? In questo momento sono molto felice perché a presto diventerò zia di una bambina di nome Carlotta. Cosa ti rende felice nei momenti difficili? Pensare alla mia famiglia mi rende molto felice, mi rende più forte per affrontare le avversità della giornata. Se potessi tornare indietro nel tempo, reagiresti in modo diverso? Sinceramente sì, cercherei di essere più coraggiosa e avrei voluto realizzarmi anche professionalmente. Secondo te, quanto pesa il giudizio altrui sulla fragilità personale? Secondo me il giudizio delle persone sulla fragilità di altre pesa molto perché a mio parere le rende ancora più fragili e rende le persone ancora più insicure e deboli. E infatti anche nella società la gente fragile viene vista come delle persone, vengono viste fragili, deboli, che cercano delle sicurezze o, come dire, delle approvazioni da altre persone, secondo il mio parere, ecco.